ora in onde, qua e là, tra una novità e l'altra. Da Angelo Arduino e Mario Lombardo, una felice giornata ai nostri radioascoltatori. Come sempre un saluto particolare va ai nostri connazionali che ci seguono in ogni parte del mondo sul sito www.crmpradio.it. Mi preme intanto fare una precisazione all'inizio della trasmissione. Noi avevamo previsto che in studio ci sarebbero stati oggi Rosario Giardina, segretario del Grande Sud, e anche Michele Nasca, coordinatore provinciale del PDL con delega di commissario per Cefalù. Io ho ricevuto stamattina una telefonata da parte di Michele Nasca nella quale mi si diceva che purtroppo era impossibilitato a venire perché aveva passato per motivi familiari la notte in ospedale, anche lui stava male e quindi mi proponeva possibilmente che se ero d'accordo che era disposto a venire la prossima settimana. Ovviamente la prossima settimana, nelle prossime trasmissioni, ci sarà Pino Simplicio e ovviamente se potrebbe anche venire Michele Nasca nelle prossime trasmissioni. Anche oggi il nostro editore Angelo Arduino ha ricevuto una telefonata da parte di Fabrizio Piscitello che gli annunciava che Rosario Giardina non poteva essere insieme a noi perché è ammalato. Quindi noi facciamo ad entrambi i nostri migliori auguri, che si rimettano presto e che finalmente ci siano gli altri nominativi dei sindaci di Cefalù che tutti aspettano, degli eventuali sindaci di Cefalù, dei candidati a sindaco di Cefalù, e che tutti aspettiamo di sapere per chiudere almeno questa partita e vedere a chi si dovranno rivolgere i cittadini nelle prossime elezioni che saranno in programma il 6 e il 7 di maggio. Intanto vogliamo dire che Salvo Gugliuzza ci ha fatto pervenire una canzone. Salvo Gugliuzza, voi lo conoscete, è un segretario di scuola ma è un poeta nello stesso tempo, e ha scritto una canzone, questa volta si è cimentato anche nell'arte della canzone, intitolata Dedicato a te. Questa canzone l'ha scritta insieme a Giuseppe Passamonte ed è eseguita e musicata da Totuccio Curreri, che tutti conosciamo. Questa canzone noi ve la faremo sentire alla chiusura della trasmissione. Altra notizia che è in corso alla nostra radio, un corso di formazione radiofonica. Ci sono stati 57 aspiranti, ne sono stati presi 6, è tutto gratuito. Le spese che ci sono a carico del nostro editore Angelo Arduino, che per questo corso di formazione non riceve alcun contributo. I docenti non sono pagati, quindi mettiamoci l'anima a posto, così stanno le cose e così li diciamo. Intanto, per quanto riguarda lo sport, ieri abbiamo assistito alla partita tra Cefalù e Città di Sant'Agata. Ha vinto il Cefalù per 4-0 con reti di Marsala e Nikit, una doppietta di Nikita e San Fratello, e Cefalù si avvia verso la promozione che dovrebbe essere in questo caso facilitata dal fatto di avere una buona squadra in grado di imporsi in tante partite. Il finale è giocato con la Futura Brolo e ha pareggiato, un prezioso pareggio che intanto gli fa fare qualche punto avanti per in vista di una salvezza che appare probabile, dato che se è questa la squadra che abbiamo visto a Cefalù è veramente la classifica è veramente bugiarda, e certamente il finale dovrebbe stare a metà classifica se non ancora più in su, e noi auguriamo a queste squadre di raggiungere i propri obiettivi. Oggi al campo Marzio Cicoli ci sarà in programma la partita tra Costa Verde e Cefalù di volley. Parliamo Costa Verde Cefalù e Messina Volley. Invitiamo i nostri radioascoltatori a raggiungere il campo Marzio Cicoli o gli Ascillo perché è una partita importante, perché Cefalù si trova al terzo posto in classifica e così può raggiungere facilmente i play-off se attraverso altri risultati positivi, e certamente l'incoraggiamento del pubblico può essere un altro uomo in campo. E lasciamo lo sport e intanto ritorniamo nello studio, dove abbiamo il sindaco di Pollina, Magda Culotta, e la ringraziamo per questo, per la sua disponibilità a partecipare a questa nostra trasmissione, così come ringraziamo l'ingegnere Rosario Di Paola, opinionista di valore, e Nicola Noto, esponente dell'MPA, che noi conosciamo anche come chirurgo all'ospedale Giglio San Raffaele di Cefalù. E vorrei iniziare con Magda Culotta, invito anche Rosario e Nicola, se quando ritengono possono anche intervenire nella discussione, nella chiacchierata che faremo con Magda. Sei già da un po' di tempo sindaco di Cefalù, quindi puoi fare di Pollina, di Pollina. Scusami, il dente batte, la lingua batte dove il dente duole. Dicevo, sei sindaco di Pollina da un po' di tempo, quindi sei in grado già di fare un primo bilancio, no? Della tua attività, diciamo come si sta svolgendo, come si sviluppa questa tua attività a Pollina. Sì, assolutamente sì. Approfitto innanzitutto per ringraziare voi dell'invito qui questa mattina. Vengo sempre con molto piacere. Un primo bilancio chiaramente si può già fare. Amministro il comune di Pollina da giugno del 2010. Sicuramente questo è un momento molto complesso per la politica, per gli enti locali in particolare, perché la crisi che ci investe ci fa rendere conto che questo forse per gli amministratori è il momento più complesso della Repubblica Italiana. Io mi sono ritrovata ad amministrare un territorio come Pollina, che è un territorio sicuramente molto molto bello, anche se è una comunità di soli 3.000 abitanti, chiaramente presenta diversi problemi. Il bilancio che faccio è comunque anche abbastanza positivo, perché in questo anno e mezzo sono state messe in cantiere tantissime cose, alcune delle quali sono state portate a termine, altre sono in itinere. Ricordo la prima volta che sono venuta in questa trasmissione in cui mi si chiedeva quali erano i programmi che questa amministrazione voleva portare avanti, e si partì dal bellissimo teatro Pietrarosa di cui parlavamo in apertura. Lì abbiamo preparato un progetto per l'abbattimento delle barriere architettoniche. La notizia oggi è che questo progetto è stato finanziato dall'assessorato ai beni culturali, e quindi credo che da qui alla fine del 2012 inizieremo con i lavori di abbattimento delle barriere e di fruizione totale di tutta l'area antistante il teatro, regalando quindi scorci sicuramente unici nel territorio madonita. E avevamo parlato anche del mare, quindi della valorizzazione, della fruizione del mare in forma diretta, perché chi conosce Finale di Pollina sa bene che il mare non è raggiungibile, diciamo, a piedi, ci serve per forza un mezzo di locomozione, per cui ci siamo spinti a capire come poter rendere fruibile la nostra costa, e abbiamo redatto un progetto di piattaforma al mare con chiaramente servizi di ristorazione, igienici e annessi. È un progetto che finanzieremo con l'avanzo d'amministrazione. In questo momento stiamo acquisendo tutti i pareri che ci vogliono per poter mettere in atto il nostro progetto, e siamo già ad un buon livello. Stiamo facendo di tutto, stiamo lavorando veramente tantissimo affinché già quest'estate possiamo partire con questo bellissimo progetto che sicuramente valorizzerà ulteriormente il nostro territorio e metterà ancora di più in relazione quella che è la nostra costa con il centro di Pollina. Queste, diciamo, sono le due cose a cui tengo particolarmente, perché sono i progetti a cui abbiamo lavorato di più in assoluto per i quali ci impegniamo giornalmente, ma chiaramente di cose ne abbiamo fatte tante, dall'apertura del Museo della Manna, grazie a dei fondi del Parco delle Madonie. Il museo era chiuso da parecchio tempo, noi siamo riusciti a riaprirlo affidandolo ad una associazione che lo ha gestito durante il periodo estivo. D'inverno lavoriamo soltanto per appuntamenti, perché chiaramente il flusso turistico è di gran lunga inferiore a quello che si registra tra la primavera e l'estate. E stiamo lavorando per non perdere le manifestazioni che sono targate, diciamo, col mio nome, con la mia amministrazione, anche se, come si diceva poc'anzi, è un momento economicamente abbastanza complesso, in cui non si capisce bene come dovremo portare avanti i nostri bilanci comunali. Però ci sono delle manifestazioni che hanno sicuramente rappresentato il territorio e l'identità del comune di Pollina, dal Festival Sete Sois Sete Luas, che è un festival di importanza internazionale che ha riscosso grandissimo successo, e quindi quest'estate sicuramente riproporremo il Festival delle Arti di Strada. La incuriosisce, sì, sì. Sì, ed effettivamente forse anche i nostri radioascoltatori sicuramente merita molto. Si è tenuto l'anno scorso il secondo weekend di luglio e ha visto sul palcoscenico del Teatro Pietrarosa esibirsi gruppi provenienti da paesi esteri. Abbiamo avuto la Spagna, abbiamo avuto la Croazia, abbiamo avuto anche gruppi siciliani, ed è un festival molto bello perché non presenta soltanto la musica sul palcoscenico, ma riesce a mettere in relazione il territorio in cui la musica si esprime con tutti i territori nel mondo in cui questo festival si porta avanti. Sono tantissimi i paesi europei e non in cui si tiene il Sete Sois. Noi siamo stati molto felici di poter intercettare gli organizzatori siamo felici di poter promuovere il territorio di Pollina con i prodotti tipici, quindi non soltanto le bellezze naturali, ma anche il nostro prodotto di punta d'eccellenza, che è appunto la manna, che va fuori con il logo del festival, appunto. Quindi è un veicolo di promozione culturale, turistica, molto importante, e quindi ci stiamo impegnando anche quest'anno affinché l'evento diventi ancora più importante sul nostro territorio e riesca a coinvolgere al meglio tutto il comprensorio madonita, ma non solo, perché la gente proprio nel mondo si sposta per visitare i luoghi in cui il festival si tiene, perché si mette proprio in relazione il cosiddetto anche turismo relazionale integrato, quello dei B&B, degli alberghi diffusi sui territori. Stiamo lavorando. Il regista, come vede, Angelo Arduino ha mandato in onda una foto, ecco, sul nostro sito ha messo il teatro di Pollina con le sue torri. È proprio la piattaforma dove si svolgono gli spettacoli, proprio dove le compagnie si esibiscono, con uno sfondo naturale unico, forse, ecco, dove non c'è bisogno di altre coreografie, perché c'è quella naturale che è splendida. Magda, tu parlavi poc'anzi di Museo della Manna. Certo, la Sagra della Manna, così come quella della Sagra dell'Ulivo, mettono in luce i prodotti della zona. Avete intenzione di continuarle, di potenziarle anche la Sagra dell'Ulivo? Sì, assolutamente sì, innanzitutto perché sono degli eventi ormai tradizionali sul territorio che denotano comunque una tipicità della nostra comunità. La manna, l'ulivo sono da sempre prodotti che si sono prodotti, scusate il litigio di parole, sul nostro territorio, e stiamo assolutamente lavorando per anche ripromozione di questi prodotti, perché sicuramente in un momento complesso economicamente come questo lo sviluppo ripassa anche dall'agricoltura, e quindi stiamo lavorando per ripromuovere questi prodotti, per tentare di far sì che si promuovano anche dei prodotti che nel tempo si sono persi e che sul territorio del comune di Pollina si producevano. Basti pensare alle ciliegie o alle castagne. Stiamo iniziando a lavorare su questo percorso di sviluppo agricolo, e devo dire che abbiamo già fatto degli incontri anche in presenza della dell'assessore regionale all'agricoltura, che hanno riscontrato successo soprattutto da parte dei più giovani, che non trovando chiaramente occupazione altrove stanno anche pensando di entrare e formare delle cooperative agricole per appunto iniziare un'attività di questo tipo. E noi siamo ben lieti di accompagnarli, tant'è che si sta studiando anche un regolamento comunale per andare ad individuare delle aree, degli appezzamenti di terreno che poi possono essere dati a privati per essere gestiti nella produzione di prodotti agricoli. Sì, tocchiamo un punto dolente, Magda. L'economia, lo sappiamo, di Pollena, di Finale, poggia sulla Valtour, un villaggio che ha la sua storia e che negli ultimi anni sta attraversando una crisi terribile. Ci sono oltre 120 persone tra di Finale e di Pollena che vi lavorano e quindi traggono il sostegno per le proprie famiglie. Cosa sta avvenendo? Cosa bolle in pentola? Ecco, cosa bolle in pentola? È un pentolone grande, Un pentolone grande e complesso. In questo momento la società sta attraversando una seria crisi finanziaria, tant'è che hanno fatto appello alla legge Marzano, e in questo momento la società è gestita da un'amministrazione straordinaria. Quindi di conseguenza è un momento delicato, però sui villaggi invernali di Marchio Valtour i commissari straordinari hanno assicurato la stagione, quindi sia per i lavoratori facendo quindi fare... quest'anno si aprirà, scusami, dovrebbe aprirsi nel usiamo senso... il condizionale sì, usiamo il condizionale perché il condizionale è d'obbligo, ci sono le premesse perché comunque loro stanno lavorando in questo momento, stanno preparando la il loro piano di comunicazione per il turismo dell'estate 2012 e stanno lavorando anche a promuovere il villaggio Valtour di Pollena. Utilizziamo il condizionale perché dobbiamo aspettare ancora qualche settimana per capire bene e al meglio come si evolverà questa questione. Ma è sempre la vecchia società o è una nuova società che è subentrata? So che era messa in vendita qualcosa, c'era, non ancora, non c'è nessuno. Nessun'altra società che ha acquisito questa struttura al momento. È vero che è vista di buon grado perché comunque per chi conosce questo villaggio sa benissimo che è uno dei più belli sicuramente che abbiamo in Sicilia, ma targati Valtour sicuramente uno dei migliori. Lo tramonto visto di là è veramente un regalo eccezionale. Fa sognare. Però al momento non ci sono, diciamo, novità. Ecco, parliamo di un altro problema, così cerchiamo di coinvolgere i nostri amici. Ingegnere Rosario Di Paola e il dottore Nicola Noto. Il porto. Saro Di Paola mette sempre il dito sulla piaga e lo mette con competenza, con razionalità, con una grande preparazione. E ha messo questo dito anche sul porto di Cefalù, dove la recente tempesta, il grecale, il levante della settimana scorsa ha scombussolato mezzo mondo, addirittura ha fatto inabissare qualche barca, qualche altra è stata danneggiata, insomma ci sono state, quando il vento viene forte, diceva un vecchio pescatore, o porto fa una mala morte, e questo si è verificato e si verifica sempre. E non credi, Magda, che dovrebbe essere un po' tutti i sindaci, perché il porto di Cefalù interessa Pollena, non c'è dubbio, interessa Castelbuono, interessa Campofelice, interessa Collesano, interessa Gangi, Pecialia, un po' tutto. E quindi non credi che, ma ci dovrebbe essere qualcuno a promuoverlo, che un incontro tra i sindaci per portare avanti, fare un comitato e portare avanti questo discorso del porto di Cefalù che affonda sempre, insomma, non ci dovrebbe essere anche un vostro intervento, un po' di tutti. Mi rendo conto che è un problema che riguarda tutto il circondario, però dico io, ognuno dovrebbe fare la sua parte in questo, no? Sicuramente... una politica territoriale potrebbe aiutarci in questo senso. Tra l'altro noi ormai siamo bravi nelle politiche di territorio, sulle Madonie, su tutto il comprensorio che va ad abbracciare anche il Termitano, l'Imerese, quindi di politiche del territorio ce ne intendiamo. Sarebbe anche auspicabile, magari facciamo un appello al sindaco di Cefalù, perché dovrebbe partire da qui comunque questo coinvolgimento di tutto il territorio, perché è chiaro, come diceva lei bene prima, che il porto poi va a beneficio di tutto il comprensorio e non soltanto della città di Cefalù. Sicuramente l'ingegnere qua presente ci potrà dire quali sono le limitazioni che in questi anni si sono abbattute sul porto affinché non si potesse, insomma, andare avanti in un miglioramento dello stesso. Sì, c'è la crisi, ma a Termine ha ricevuto i finanziamenti per l'interporto, quindi se vede, credo che i problemi siano di altro genere. Crearsi l'alibi, non ci sono, cioè non abbiamo soldi. No, però dico, io so che ci sono problemi di altro genere, credo sovrintendenze e quant'altro, però appunto c'è chi sa più di me. Ingegnere Di Paola, tu hai fatto delle fotografie bellissime, bellissime ma, dal punto di vista così, ma che denunziano uno stato di fatto terribile, veramente drammatico, con quelle onde che entravano nel porto e che... Io saluto intanto, ringrazio la radio e saluto chi ci ascolta. Voglio dire che dobbiamo, se vogliamo il bene di questo porticciolo che abbiamo, dobbiamo smetterla di pensare per questo porto in termini territoriali. Il porto di Presidiana può, al più ormai io ho maturato questo convincimento, assolvere alla funzione per la quale il sindaco Giardina nel 1951 l'aveva voluto, cioè rifugio Teschereccio. 61 anni sono passati. E io mi auguro che almeno in questo ci si riesca, un rifugio Teschereccio che magari possa consentire la possibilità l'attracco agli aliscafi e nella stagione estiva accogliere quanto più piccole imbarcazioni da diporto può accogliere, pensare che il porto di Cefalù, come si pensò negli anni subito dopo, allora ci fu mi pare si chiamasse Giuseppe Livecchi, che diceva, professore Livecchi, professore di filosofia e storia, diceva che la geografia era con noi a Presidiana, avrebbero voluto fare quello che potrebbe essere fatto a Termine Imerese, un porto anche commerciale. Era allucinante, perché la fisiografia del luogo, la strada d'accesso e quant'altro è quella che è, e gli aspetti naturalistici sono quelli che sono. Quindi io mi auguro che il prossimo sindaco di Cefalù riesca quantomeno a fare del porto di Presidiana un rifugio peschereccio sicuro. Soltanto questo può essere fatto, rifugio peschereccio con la possibilità di attracco per gli aliscafi anche in condizioni di modesto grecale, che possa nel periodo estivo accogliere, oltre alla flotta peschereccia, diciamo così, della marineria, le imbarcazioni della marineria cefaludese, accogliere anche delle imbarcazioni da diporto. Perché? E io qua, siccome sono abituato a misurarmi sul campo per risolvere i problemi, io dico che quando ho parlato in uno degli ultimi nello scritto che ho fatto a proposito di quella mareggiata, di un comitato Cefalù quale porto, pensavo al comitato Cefalù quale ferrovia, cioè un comitato che possa essere da pungolo, che possa stare, tallonare la supposta, le amministrazioni, pungolo, certo. Perché qua viene un sindaco e fa un progetto, l'ultimo quello di Simona Vicari, prima ce n'era stato quello precedente, era ora stato quello buttato di a mare pure quello, il progetto voglio Botta. Dire, cioè ci vuole qualcuno che segua le amministrazioni che si succedono nel tempo per poter portare avanti questo problema. Cioè, ricorderete che il 24 aprile dello scorso anno il sindaco di Cefalù ha firmato un protocollo d'intesa con Giovanni Avanti. Sì, con la provincia. Con sì. la provincia, nel protocollo d'intesa valido 2 anni, entro i quali la provincia si sarebbe dovuto fare carico della progettazione di massima e del progetto definitivo del porto di Cefalù nell'ambito del potenziamento, il progetto di potenziamento della portualità turistica della provincia di Palermo. Ebbene, questo avviene il 24 di aprile di quest'anno. Il 7 o 8 di gennaio, quando avete fatto CRM, la conferenza stampa, il sindaco ha detto che da 4 mesi, sono parole testuali, perché io le cose che devo memorizzare le riesco a memorizzare bene, da 4 mesi sarebbero 6 mesi, il Genio Civile Opere Marittime sta facendo studi sui fondali e sulle correnti, avvalendosi anche di quelli che il comune di Cefalù gli ha messo a disposizione per fare questo progetto di messa in sicurezza del porto, che prevedeva col martello di chiusura, che è quella cosa più importante. Ora, io dico questo, cioè, quindi intanto il protocollo d'intesa con la provincia che fine ha fatto? E quindi se ci fosse stato un comitato che talloni l'amministrazione, avrebbe chiesto: signor sindaco, ma lo sta facendo l'ufficio del genere civile opere marittime o la provincia? E tu dici che sarà fatta una banchina di sottoflutto, sarà allungata, ma perché esiste a Cefalù una banchina nel porto di Presidiano, una banchina di sottoflutto? E allora io lancio un'idea a chi sarà il prossimo sindaco di Cefalù, chiunque esso sia. Cefalù, il problema del porto o rifugio peschereccio, perché ripeto, soltanto questo potrà essere con le alternative che ho dato per il periodo estivo, è la messa in sicurezza rispetto, a parte tutti gli altri problemi logistici, funzionali, impiantistici, eccetera, ma fatto fondamentale la messa in sicurezza rispetto al Grecale. Ebbene, dopo il progetto dell'ingegnere Strongoli del 1951, dal 1963 al 65 l'ufficio del Genio Civile per mettere in sicurezza il porto ha progettato una banchina di sottoflutto che era come una spada infilzata nella scogliera della Calura, e aveva avuto quel progetto pure il parere favorevole alla sovrintendenza. È incredibile, ma è così. Poi nel 1984 il Consiglio Comunale di Cefalù aveva approvato il progetto dell'ingegnere. L'ingegnere Nino Vazzana aveva dato incarico all'ingegnere Enrico Migliardi, che aveva fatto una banchina per proteggere il grecale con la forma di Y, con i bracci, uno puntato verso Gualdura e uno puntato verso non la scogliera della Caldura, ben oltre, verso la spiaggia della insenatura, la tua come ci ha montato quindi la Y. Poi Simona Vicari nel 2002 ha fatto fare il progetto di Botta, un grande urbanista, mettendo una diga, un segmento rettilineo più o meno orientato come in direzione sud-est, più o meno parallelamente ai bracci della banchina T. Quindi tutte le soluzioni per mettere in sicurezza dal Grecale il porto di Cefalù, il bacino portuale, non esistono altre possibilità. Allora che cosa significa? Se tutte queste, quindi al sindaco che verrà, che cosa dico? Prenda tutti questi progetti che al comune ci sono, convochi Capitaneria di Porto, Ufficio una conferenza di servizio e dica: questa non è andata, quest'altra soluzione non è andata, quest'altra soluzione non è andata, è chiaro, e vediamo di trovarne una. Il ridimensionamento del bacino portuale, perché se non si ridimensiona il bacino riportandolo al rifugio peschereccio con le opzioni che ho detto, non si risolverà mai il problema. Perfetto, chiarissimo. Nicola Nota, consigliere comunale, esponente dell'MPA, qual è il tuo parere in ordine a questo porto? Questo porto che io me lo ricordo, Nicola, quando ero piccolo, che andavo alla scuola media, quando è stata buttata la prima pietra con il ministro Restivo, c'era la fanfare, la musica, banda musicale, siamo andati tutto lì, tutti lì per buttare questa prima pietra. Si è buttata questa prima pietra, abbiamo buttato mezzo castello a mare, e d'inverno le mareggiate se lo portavano via, d'estate si ricostruiva, era una miniera per le ditte che dovevano fare questo lavoro, e intanto siamo a quota zero. Perché quando arriva un grecale, come diceva l'ingegnere De Paolo, tutto svanisce, diventa preda di qualsiasi cosa. Ecco, prego, Nicola. Questo, intanto ringrazio Mario Lombardo e la radio per avermi invitato qui. Per l'altra volta diceva tu, quando invito io non viene mai, però i miei impegni, no, io lo capisco, no? A parte ogni battuta, partecipare soprattutto la domenica, capisco che l'ammalato vale questo più di qualsiasi cosa, per dimostrare che ho stima nei tuoi confronti. Grazie. E ringrazio anche, è reciproco, anche la radio che mi ha invitato. Il problema del porto, io credo che il problema che sta alla base di ogni situazione che si presenta è dovuto al fatto che non c'è un impegno ben preciso e continuo da parte dell'amministrazione. L'ingegnere Di Paola sosteneva di fare un comitato quale porto, così, diciamo, per fare una similitudine, quale con il comitato, quale. Io lo chiamerei il porto di Penelope, il porto di Penelope. Ma non ci dovrebbero essere questi comitati di cittadini che spingano? Cioè qui assistiamo alla corsa verso la sindacatura, la corsa verso la poltrona di assessore, la corsa verso il consiglio comunale. Ebbene, finito l'entusiasmo del primo giorno in cui c'è l'investitura ufficiale, in cui ognuno è, diciamo, è pago, soddisfatto del risultato elettorale, ebbene, l'indomani tutto ritorna nell'anonimato, tutto ritorna nel caos più totale. Non ci dovrebbero essere questi comitati cittadini, dovrebbe essere l'amministrazione che con impegno costante, diuturno, si dedica ai problemi dell'ospedale, ai problemi di Cefalù, del territorio, perché poi diciamo che i problemi sono quelli anche del territorio, perché ci sono strutture che volente o nolente interessano anche il territorio, come il porto, come l'ospedale, come la pretura. Ebbene, noi abbiamo assistito negli ultimi anni il depauperamento di tutte queste strutture, senza che ci sia o ci sia stato un interessamento da parte di amministrazioni che hanno contrastato la chiusura di queste strutture, come la ferrovia. Cioè, stiamo perdendo, Cefalù sta perdendo tutto. Sta perdendo il tribunale. E allora, perde il punto nascita, sta perdendo cose. Tutto. Allora io dico, io non voglio giudicare se uno è capace o è incapace, sono i fatti che poi, diciamo, lo dimostrano. Quello che sta avvenendo è la capacità o incapacità da parte degli amministratori. Però quello che dico io è questo, e l'ho sostenuto sempre. Cioè, per amministrare una città bisogna amministrarla, soprattutto una città come Cefalù, bisogna amministrarla mettendo un impegno 24 ore su 24. Non si può amministrare una città, allora, diciamo, nei momenti di libertà dal proprio lavoro, dalla propria professione, eccetera. Questo porterà sicuramente a un fallimento amministrativo. Allora dico questo. Le soluzioni per il porto di Cefalù ci sono state, bisogna, si sono studiate, bisogna affrontarle e seguirle nel tempo. E non le faccio un progetto è buono e poi non vado. Io so di sindaci, di città importanti, sono tutti i giorni, non stanno nel loro paese, stanno a Palermo a cercare i finanziamenti, a risolvere i problemi laddove si devono risolvere. O a Roma. Non è che ci stiamo qua, cioè, e diciamo soldi non ce ne sono e risolviamo il problema. No, è un alibi che non serve a niente. È un alibi che non serve tutti a niente. Comuni sono in ci vuole buona volontà, lavorare 24 ore su 24, ma non solo il sindaco, dico io, tutta la squadra. Certo, certo. Non c'è dubbio, perché non si può addebitare tutto al sindaco. Non c'è dubbio. Telefonare a mezzogiorno, hanno chiamato, mi hanno cercato, mi ha cercato qualcuno. Questo, scusa, Nicola, non solo il sindaco e la giunta, ci vuole anche un consiglio comunale. Il consiglio comunale non può essere il rappresentante adesso dei cittadini, il consiglio comunale sono 20. Se di questi 20, 15 o 14 o 13 regolarmente vanno là per andare a scaldare la poltrona, e viene meno lo la capacità propositiva dell'organo consiliare rispetto all'amministrazione. Non, e io qua faccio un appello a quanti per ora, urbe, non urbe, non lo so, UDC, PPP, non ne so neanche io più quanti sono, possibile, impossibile, eccetera, di candidare persone che se elette possano dare un contributo, non candidare persone che possono avere 10 voti, poi magari ne ottengono 100 e scavalcano chi magari si pensava essere eletto. È in questa fase che ci vuole il massimo senso di responsabilità da parte di tutti questi che ambiscono alla poltrona senza sapere neanche come ci si siede in quella poltrona. Sì, e soprattutto non crearsi alibi, perché pure Magda Culotta potrebbe dire, ma il mio comune, ci sono deficit, ci sono cose, come ma bisogna di Mario Cicero lo potrebbe dire, quello che hanno detto buono, in questo ma tutti questi comuni sono in deficit, tutti i comuni hanno problemi, bisogna, ci vuole problemi. Dignità, però bisogna dignità ai ruoli della politica, dal consigliere comunale all'assessore ai sindaci, ci vuole impegno e costanza, hanno detto bene, quantomeno si può dire di provarci a fare le cose, poi se non ci si riesce un altro problema. Intanto Fabio Fiducia e il nostro regista Angelo Arduino ci chiedono di fare una breve pausa e intanto la facciamo. Pubblicità. Supermercato Pam Cefalù, una vasta scelta di prodotti, assortiti reparti di frutta, carne e formaggi e salumi, offerte periodiche, tante idee e tanto risparmio. Il supermercato Pam Ferdico di Cefalù premia la tua spesa, ogni 20 euro di spesa partecipi all'estrazione di fantastici buoni acquisto, da 200 euro, 400 euro e 700 euro, estrazione 29 febbraio 2012. Supermercato Pam, via Cirincione 62 Cefalù, telefono 0921 420 167. Ristorante Pizzeria Kenzia al Trappito da Nicola. Per una cena indimenticabile con piatti particolari, decorati con estro e fantasia. Per la pizza con gli amici, gustosa e ricca di ingredienti di qualità. Nel centro storico di Cefalù, in via Bordonaro 96. Per prenotazioni e info 0921 42 38 01. Ristorante Pizzeria Kenzia al Trappito, con suggestiva terrazza sul mare. Kenzia al Trappito vi ricorda che anche d'inverno potete godere lo spettacolo del mare con la terrazza coperta. Arredi Madonia Vincenzo e figlio, quello dell'insegna con il ghirigoro d'oro. Arredi Madonia, l'emozione che costa poco. Piazza San Leonardo 7 a Castelbuono. Un'atmosfera da favola, le calette sala eventi. Una terrazza mozzafiato sul mare del Golfo di Presidiana Cefalù. Le calette sala eventi, per festeggiare matrimoni, battesimi, cresime, lauree e qualsiasi altro evento importante. Con terrazze e sala vista mare che possono ospitare fino a 300 persone. E dove la professionalità dello staff si sposa con il buon gusto. Vieni a visitarci. Le calette sala eventi, Contrada Presidiana Cefalù. E i sogni diventano realtà. A Termini Imerese, ambulatorio di medicina e traumatologia sportiva, in corso Umberto e Margherita 10, regolarmente autorizzato dall'azienda sanitaria provinciale di Palermo. Si rilasciano certificati per attività sportiva agonistica e non agonistica. Si effettuano visite di posturologia clinica e sportiva, programmi di allenamento posturale per adulti e bambini. Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi al centro di riabilitazione fisio-chinesiterapica, corso Umberto e Margherita 16, Termini Imerese, telefono 091 81 43 692. Stuzzico, fast food pizzeria, a Cefalù. Pizze piccole e familiari, primi e secondi piatti veloci, da consumare sul posto o da asporto, insalate fresche e fantasiose, e le specialità, panini, piadine, kebab e piatto kebab, panini con hamburger e con porchetta, e il gelato soft. Da Stuzzico, menù fisso a base di carne 12 euro, di pesce 15 euro. Stuzzico è anche rosticceria Mignon, catering. Stuzzico è ideale per festeggiare compleanni e ricorrenze particolari. Stuzzico, fast food pizzeria, anche servizio a domicilio. Via Roma 39, telefono 0921 42 35 42, Cefalù. Quando devo regalare un gioiello, vado da Mineo Gioielli, perché mi sento accolta, coccolata. Capiscono cosa cerco per rendere felice la persona a cui donare un gioiello. Non perdo un'occasione per recarmi da Mineo Gioielli, perché oltre alla cortesia e gentilezza, trovo le più preziose idee regalo. Gioielli esclusivi sapientemente lavorati da maestri orafi, che trasmettono emozioni, testimoni di momenti memorabili. Mineo Gioielli, via Flavio Gioia 3, a Bagheria. Telefono 091 96 23 13. Perché regalare un gioiello non è solo un piacere per chi lo riceve, ma anche per chi lo regala. Vuoi navigare su internet da casa tua o dal tuo ufficio senza pagare il canone telefonico? Allora attiva l'ADSL Naviga Liberamente, il provider internet che ti fa navigare senza nessun limite, 24 ore su 24, a 12,90 € al mese. Chiama subito per informazioni l'848-690-514 o visita il nostro sito www.navigaliberamente.it per scoprire il tuo rivenditore di zona. Solo da noi navighi liberamente, veloce e sicuro, a 12,90 € al mese. Ah, se sei in una zona scoperta di ADSL, chiamaci, ti risolveremo il problema. Naviga liberamente. Per la tua pubblicità su CRM, telefono allo 0921 423 456. E riprendiamo qua e là tra una novità e l'altra, è con il sindaco di Pollina, Magda Culotta. Magda, avete fatto chiamiamola fusione, ma confusione non è, c'è i sindaci di Pollina, di San Mauro, comuni di Valdemone, credo qualcosa di questo genere, che possano sfruttare le cose positive dell'uno o dell'altro comune. Allora, per correttezza va detto che l'Unione dei Comuni Valdemone era attiva già da prima che arrivassi io e che arrivasse il sindaco di San Mauro Azzolini ad amministrare i territori, sì. Quindi era stata portata avanti dalle precedenti amministrazioni. Noi stiamo proseguendo in questo percorso, cercando anche di dare all'Unione dei Comuni delle funzioni un po' più importanti rispetto a quelle che hanno portato avanti fino ad oggi, anche perché la legge ci impone anche delle limitazioni sui comuni e il fatto che diversi servizi si debbano associare con altre realtà. Quindi stiamo analizzando una serie di percorsi per capire cosa è più giusto fondere e dare un servizio univoco alle comunità. Ho capito. Diciamo che ci sono stati anche, credo che avete fatto delle richieste per il terremoto, perché in Italia ci sono due Italie, una quelle del sud, con esclusione di qualsiasi cosa, noi l'abbiamo visto anche a Cefalù, ci sono stati gli incendi, 242 domande, niente risarcimento, niente cose, nessun interessamento da parte di chi governa questa città a tutti i livelli, maggioranza, opposizione e cose, non è arrivata mezza lira per gli incendi. E per quanto riguarda i terremoti, credo che voi vi siete mossi pure a Pollina per cercare di avere Sì, da subito, il movimento diciamo è ancora attivo. perché dopo 17 anni, insomma. Avete fatto richieste? Abbiamo fatto richieste, c'è stata una suddivisione delle zone colpite dal terremoto tra zone A e B, e quelle A ormai si sono quasi completamente concluse e ci stiamo impegnando come amministrazione anche a capire se c'è la possibilità di intercettare dei fondi per quelle abitazioni che in prima battuta erano state escluse da un finanziamento per riqualificazione delle abitazioni civili andate in malora con le scosse di terremoto. Saluti Paola, sei intervenuto ultimamente sui debiti delle sorgenti per Presidiana, mi pare qualche cosa di simile, no? Hai toccato anche questo tasto, c'era una richiesta, credo, la puoi chiarire questo discorso? Intanto c'è un lodo, un arbitrato, mi pare sì. Di circa che ammonti ormai un interesse e cose, sarà intorno ai 3 milioni di euro. Un primo arbitrato, lodo arbitrale che la sorgente presidiana ha vinto, per il quale ha fatto il decreto ingiuntivo. Io ho la sensazione che tra qualche anno la sorgente presidiana diventerà proprietaria dei beni immobili più appetibili di cui il comune dispone, che non sono certamente il consiglio di quartiere di Sant'Ambrogio, che nessuno mai comprerà, ma che sono quelli all'interno del centro storico di Cefalù. E mi pare pure giusto, perché se la sorgente presidiana non avesse avuto lo spessore economico che ha dimostrato di avere, quando con circa, mi pare che al totale dei debiti somme circa 4 milioni di euro, nessuna azienda avrebbe resistito, sarebbe riuscita a portare avanti un servizio di potabilizzazione nella maniera brillante ed efficace con cui l'ha sinora portato avanti e gestito. Io dico che su questo preferisco stendere un velo pietoso, perché qua, a partire dal sindaco Vicari, che purtroppo ha inserito una clausola, cioè nella quando diede l'autorizzazione cosiddetta dichiarò potabile l'acqua, che fece quel discorso della polizza fideiussoria, che secondo me non sarebbe stata la polizza assicurativa nei confronti dell'utente, con la quale si disse pure che il sindaco Vicari si era venduta con 500, non so quanti erano, 500.000 euro, con una polizza di 500.000 euro si era venduto e aveva barattato la salute dei cittadini. Quindi anche il sindaco Vicari ha fatto un errore nella stipula di nel far partire il servizio di potabilizzazione, sicuramente perché formata in maniera perché non collaborata dal suo responsabile del servizio di allora, l'ingegnere Cucciardo. Io non ho paura di fare nomi, neanche dal segretario comunale o dal direttore del comunale del tempo, perché se il sindaco Vicari e i suoi collaboratori avessero studiato, avessero le cose, la materia come la materia meritava di essere studiata, non avrebbero scritto quello che hanno scritto, alimentando poi tutti quei discorsi che su quella polizza sono stati alimentati e facendo deragliare, perché la politica cefaludese sulla potabilizzazione ha deragliato, perché allora quando Cefalù ha avuto a disposizione il servizio di potabilizzazione che per un ventennio si era rivendicato, a quel punto il potabilizzatore è diventato l'obiettivo della politica cefaludese. Ecco perché, risolto un problema, invece di compiacersi di aver avuto risolto un problema, la politica ha attaccato sul potabilizzatore, dico tutto. La nota positiva è che l'acqua ora almeno si può bere. Ma io sto dicendo che è un fatto. Ma io sto dicendo che è un fatto. Che è un fatto estremamente positivo. Prima era un pezzo di sale. È un fatto estremamente positivo. Io sto dando forza al tuo discorso, però la politica ha trovato il suo nemico nel potabilizzatore, so perché il potabilizzatore era stato voluto da Simona Vicari. Preferisco spendere un velo pietoso, perché qua, ecco, ne avrei. E parliamo di altro, Saro, parliamo di altro, anche perché dobbiamo coinvolgere anche il nostro Nicola Noto. E io parto da un articolo scritto dal giornalista Vincenzo Lombardo, che solitamente è veramente ben informato, e tutti i nomi che ha fatto poi si sono risultate veritiere, anche se qualcuno parlava di ma no, non è possibile, persino il sindaco Cicero ha poi confermato che quindi dice lui in un articolo che scrive per la Sicilia di Catania che si sarebbero per il momento pagati gli entusiasmi dei simpatizzanti del PDL di Cefalù sull'eventuale candidatura a sindaco di Vittorio Sgarbi. Probabilmente, dice, hanno pesato le vicende di Salemi, dove gli ispettori ministeriali hanno chiesto lo scioglimento dell'amministrazione comunale per infiltrazioni mafiose. Sgarbi più volte è stato a Cefalù, città che ha apprezzato sin dalla prima visita, e non avrebbe comunque abbandonato l'intenzione di correre per la poltrona più alta anche con un suo partito. Ho già il nome, ci dice, e mi risulta che lui l'ha intervistato nei giorni scorsi, si chiamerà Partito della Rivoluzione. Per poi aggiungere, già il mio biglietto riporta Sgarbi guida della rivoluzione. Potrei fare quindi delle liste nei comuni con apparentemente tendenzialmente col PDL. Parlerò di questo, continua il critico, e della candidatura a Cefalù questa sera in un incontro che avrò con Berlusconi. Chiusa questa parentesi, continua Vincenzo Lombardo, Sgarbi farebbe un passo indietro su un candidato condiviso. Ecco, qui nasce il punto. E non imposto da altri partiti. E poi lancia il nome di Gianfranco Micciché, che invece lo avrebbe sconsigliato da una sua discesa in campo a Cefalù. Nel 2008, afferma Micciché, mi disse che la sua massima aspirazione è fare il sindaco di Cefalù. E allora Sgarbi o Micciché o le primarie, chiosa. Il PDL, questa è la parte più importante che ci interessa più direttamente oggi, starebbe invece valutando la candidatura di Edoardo Croci, docente alla Bocconi ed ex assessore alla mobilità della giunta Moratti, sul quale ci sarebbe il gradimento di Grande Sud, che lo avrebbe proposto. Addirittura sarebbe stato proposto dal Grande Sud il nome di Edoardo Croci, che tra l'altro si è specializzato negli Stati Uniti, credo che sia un grosso nome di grosso spessore comunque. E Croci è sposato con una cefaludese, Marina Verderraime. Potrebbe essere, afferma il commissario del PDL Michele Nasca, un buon sindaco di spessore, un tecnico d'aria non etichettato. Quindi nasce questo nome e io so, credo che scioglierà le riserve, il PDL scioglierà le riserve lunedì prossimo. Forse per questo, forse qualcuno non vuole neanche dare giudizi prima ancora, anche perché per ora sotto sotto ci sono, come sapete, lavori sotterranei che avrebbero potuto bucare pure la rocca di Cefalù e fare un'altra galleria. Lavori continui, abbinamenti, apparentamenti, matrimoni, c'è di tutto. Nicola, ma voi come siete combinate con MPA? Diciamo che la situazione a Cefalù è in fibrillazione, c'è una fibrillazione continua. E questo dicevo. Non c'è un quadro chiaro, perché fino adesso abbiamo assistito alle autocandidature che un partito o un movimento fa. Però non vedo un discorso serio di base, perché il discorso serio di base non nasce dal fatto che ogni esponente politico, ogni gruppo civico, comitato che sia, espone e candida un proprio sindaco. Ci deve essere, a mio avviso, alla base un discorso non dico di aggregazione, ma di programmi condivisi. Cioè dire, su un programma ci deve essere, che è la base, ci deve essere una maggiore aggregazione possibile. Quello è quello che deve andare avanti. Il nominativo del sindaco è, diciamo, secondario, perché qua tutti si atteggiano a novelli Robin Hood che andrebbero a risolvere i problemi di Cefalù. Però non è così, perché alla base ci deve essere la massima condivisione possibile, solo così si può andare a governare Cefalù, perché con la nuova legge elettorale basta un voto per andare a fare il sindaco, ma di fatto vincerebbe l'elezione ma perderebbe l'amministrazione, in quanto poi non avrebbe i numeri in consiglio comunale per poter amministrare la città. Quindi diciamo, noi dell'MPA ancora non abbiamo deciso, non perché non ci vogliamo diciamo scoprire le carte, ma non vediamo una aggregazione allo stato attuale possibile che possa andare ad amministrare realmente Cefalù. Quando ci sarà questa condizione noi esprimeremo la nostra posizione. C'è una frammentazione dell'elettorato. Io credo che mai come questa volta i cefalutesi si troveranno in difficoltà nello scegliere chi è, a chi votare. Certamente Mario Lombardo ha letto l'articolo sulla Sicilia. Sulla Sicilia di Catania, sì. Diciamo che a mio avviso, se PDL e Grande Sud si mettono assieme, io credo che vincerebbero l'elezione, perché se noi guardiamo la storia, Cefalù ha un elettorato di centrodestra. Sì, la storia, diciamo, la storia è questa. E il centro-sinistro o la sinistra non ha mai fatto niente per poter vincere o per poter sconfiggere questo fronte del centrodestra. Quindi io credo che in questo momento diciamo, le ambizioni io li metterei da parte. Tutti questi candidati sindaci dovrebbero un po' riflettere e ritornare con i piedi sulla terra, cioè nel senso di cercare un consenso il più vasto possibile e poi diciamo su questo consenso esprimere il candidato sindaco. Ma ripeto, non è il sindaco in sé per sé. Ma deve essere una squadra, un aggregato di persone, di società civile, eccetera, che appoggia quel programma e quell'amministrazione. Diciamo che ogni candidato, certo, dovrebbe avere un supporto, come dici tu giustamente, che gli consenta di andare avanti, di andare ad amministrare. E io, se me lo consenti, ne vedo quando sono di più i candidati, a parte il discorso del Consiglio Comunale, è maggiore possibilità per il cittadino di poter trovare il candidato che è più congeniale alle sue idee. Certo. E quindi da questo punto di vista, secondo me, può capitare che ci siano due candidati soltanto, e magari qualcuno non ci va perché dice non mi piace nell'uno o nell'altro. Se ce ne sono 3, 4, 5, allora c'è la possibilità, o viceversa, potrebbe essere tra i nuovi e gli piacciono invece i primi due. Diciamo che, come dicevi tu, l'elettorato è molto diversificato, per cui possono scegliere. Però tante una cosa cose. È certo, io mi auguro che non sia, mi auguro che il sindaco sia di Cefalù. Che sia anche supporto. No, su queste cose non credo che, io credo che il sindaco deve avere gli attributi giusti. Può venire anche dalla Cina, ma che abbia gli attributi giusti, che sappia risolvere i problemi, che sappia trovare i finanziamenti, che sappia battersi. Questo è importante. Noi ne abbiamo visti, dice sindaci cefalutani, doc, e magari non avere la capacità, e sindaci cefalutani capaci, abili. Questo non significa, cioè, dare una patente soltanto se è nato, o non può essere buono quello che è nato all'Ascari, o a Campofelice, o a Castelbuono. Ma come si fa a gestire una città da Milano? Esatto. Da Milano come si fa a gestire? Solo non perché io sono capace, posso gestire. Cioè, il cittadino si deve interfacciare con il sindaco. Io che sono consigliere comunale non devo aspettare il giorno che lui viene. Nei particolari, io ti dico invece nel discorso che deve essere Cefalutà, non è detto. Ma uno può stare anche a Cefalù e andare al comune quando gli conviene. Deve essere uno con vale la premessa che ho detto prima, che si deve amministrare 24 ore su 24. Puoi intervenire su questo discorso? Io intanto devo dire che stamattina quando sono arrivato qua, tu mi hai detto che non ci sarebbero state né il segretario del Grande Sud Rosario Giardina, me ne sono dispiaciuto pure io, Saro, perché avevo io ci sono rimasto molto deluso, perché avrei voluto fare una domanda, non mi sono mai, non ho avuto mai l'opportunità, non conosco neanche chi sia Nasca, ma di farla a Rosario Giardina nella sua qualità di segretario di uno dei partiti del centrodestra, o direi di una delle anime del PDL, perché di questo si tratta. Io avrei voluto chiedere a loro, approfittando della presenza di entrambi, quale, siccome a Cefalù si dice che ormai da parecchio tempo ci siano tavoli di lavoro, tavoli tecnici, tavoli di partito, tavoli politici, non so come chiamarli, e nei quali si sono incontrati tutte queste PDL, Forza del Sud o Grande Sud che sia, ora Urbe, non so chi altri. Volevo chiedere ad entrambi, che sono i segretari delle forze più rappresentative del centrodestra cefaludese, su quale punto del progetto politico che certamente hanno elaborato per Cefalù non hanno ancora trovato l'intesa. La mia ovviamente sarebbe stata una domanda provocatoria, perché io ho la sensazione, per non dire la certezza, che per ora, a parte la scelta del candidato sindaco, la partita si giochi su tutt'altri tavoli che su quello dei problemi di Cefalù. Si gioca sul tavolo della vice sindacatura, sul tavolo della presidenza del consiglio, e questo sino a quando i partiti giocano, insomma, le poltrone, i partiti, pure, i movimenti saranno questi. Io mi rifiuto, certo, di dare a questi partiti, a questi movimenti, a queste anime di partiti l'aggettivo di aggiungere politico. Questi non fanno per me, se c'è la ricerca della poltrona, quando si ragiona in questi termini, e in questi termini questi sono gli argomenti di discussione di questi cosiddetti tavoli tecnici, non i problemi della città di Cefalù. Ora, detto questo, volevo dire che l'8 maggio sicuramente Cefalù avrà un suo sindaco, perché tra i 3, 4, 5, 2 candidati sindaci ve ne sarà uno che riporterà il 6 e il 7 un voto in più di tutti gli altri. Però questo non significherà, l'ho già detto e già ho già messo sono stato il primo a fare avvertire pubblicamente il pericolo, però c'è il rischio che questo candidato sindaco non abbia il 40% più uno dei voti e non abbia una maggioranza in consiglio comunale. Il rischio più grosso è che la legge che ha portato all'elezione diretta del sindaco, con l'ultima modifica, quella del 2011, alla fine faccia ripiombare le città, i comuni, in quel circolo vizioso, un circolo vizioso peggiore di quello nei quali i comuni erano durante nel corso della Prima Repubblica, perché nella Prima Repubblica i comuni erano, cioè i sindaci erano sottoposti, diciamo, erano i sindaci dei partiti, dovevano assecondare i partiti, ma i partiti di quel periodo erano partiti politici, ora dovrebbero assecondare gruppi, gruppuscoli o quel consigliere comunale che in quella determinata lista ha avuto la fortuna di essere eletto perché gli è scattato il seggio consigliare. Siamo in una condizione, il rischio perché dopo l'8 di maggio vi sia un sindaco ma non vi sia un'amministrazione, non vi sia non vi siano istituzioni al servizio della città, è per me molto molto forte, e io mi auguro che questi giorni che rimangono da qui al giorno di presentazione della lista servono un po' tutti a fare riflettere se veramente hanno a cuore il destino di Cefalù. Ma io ho molti dubbi su questo fatto, perché è facile dire che si ama Cefalù, che ci si candida per risolvere i problemi di Cefalù, è facilissimo dirlo, la verità molti, in molti casi è molto diversa ed è molto amara per certo. Cefalù. Serve grande senso di responsabilità. Sì. Perché comunque Cefalù gioca una partita importante sicuramente, ma ha un ruolo importante in tutto il comprensorio madonita, quindi il declino di Cefalù poi automaticamente è un declino che investe tutti, sì. Di conseguenza veramente serve un fortissimo senso di responsabilità, perché amministrare questa città, così come dicevo all'inizio, amministrare oggi non è facile, sicuramente amministrare questa città sarà ancora più difficile, quindi assolutamente impegno, costanza, dedizione, proprio per il territorio, per il bene delle comunità e quindi poi per tutto il comprensorio vicino. Io da cittadino che segue le cose distante dalle, da tavoli tecnici, da, da segreterie di partite, da deputati regionali o nazionali, io ho sempre avuto una specie di repulsione nei confronti di questa, delle atmosfere che si vivono in questi giorni. Dico che a Cefalù io ho la sensazione che si giochi a chi può riportare un voto più degli altri e che sostanzialmente non si guardi alla prospettiva che un'eventuale l'elezione del singolo può aprire alla città e al territorio. Sì, guardate, cosa, io voglio dire, elezioni, se mi consente avevano, una cosa, una cosa Magda. Soltanto, che comunque bisogna stare attenti di una cosa, oggi sicuramente più che mai l'elettore è un elettore molto molto attento, che guarda anche alla persona, ai programmi, a quello che si può proporre, c'è una porzione di elettorato che è veramente attenta alle tematiche, alle problematiche, quindi si accorge, ha la sensazione se ci sono questi giochi, questi movimenti di tavoli eccetera e basta, che guardano soltanto al numero ma non alla qualità del programma che si mette in campo, la gente se ne accorge perché l'elettore è più attento oggi. Certo, cioè, ma anche lei, soprattutto no? Ci siamo accorti per esempio di una cosa, che dalle tante liste che c'erano la volta scorsa con il nome più vari, non si è capito più chi era a destra, chi era a sinistra, chi era al centro, chi appoggiava il sindaco, chi non l'appoggiava, chi non... arrivato a un certo punto c'è stata la confusione delle lingue, per cui neanche io, noi tante volte per invitare i gruppi cerchiamo di io delego qualche volta all'editore Angelo Arduino per cercare chi è il capo di quel gruppo, dell'altro gruppo che si è costituito, di quello, perché c'è veramente una grande confusione. E non si sa dove la maggioranza, dove l'opposizione, il consiglio comunale, si vaga un po', c'è una situazione paradossale. Noi ci auguriamo che alle prossime elezioni invece ci sia si sia delineata una linea, non ci siano salti della quaglia, che tutti se seguono una cosa devono continuare a seguirla, se no abbiano la compiacenza di dimettersi e di lasciare agli altri queste possibilità. Però io volevo chiedere, ecco, a Saro Di Paolo, la volta scorsa ti hanno proposto per sindaco e hai rifiutato. Poi ovviamente tu che sei impegnato continuamente a ricercare i problemi di Cefalù, a fare da stimolo, perché fai da stimolo tante volte, denunciando alcune cose, mettendo le fotografie, cercando stimoli anche chi governa questa città a risolvere i problemi per quello che si può, per quello che possano. Ma non hai pensato, ecco, alle prossime elezioni di dare il tuo contributo invece fattivo, entrando in un consiglio comunale dove tu puoi dire la tua e non siano tanti a comandare soltanto uno o due in quel consesso, ma ci siano più altri che possano dire la propria parola? Guarda, io Nicola mi pare può essere buon testimone di quanto dico. Sarei potuto essere sindaco di Cefalù nella prima Repubblica. Tu mi pare facevi parte di quello stesso gruppo consigliare della Democrazia Cristiana che mi aveva eletto sindaco, come avveniva allora, all'interno della Democrazia Cristiana, del partito di maggioranza relativa. Io sarei potuto essere candidato sindaco, come tu hai detto, nelle elezioni del 2007, perché in quella di Santa Lucia, dai presenti per acclamazione, ero stato presente l'onorevole Musotto, ero stato che coordinava i lavori, ero stato indicato come candidato sindaco del centrodestra del Forza Italia, allora che si chiamasse, e quant'altro. Io sarei potuto essere assessore in tutte le giunte tranne in quella del sindaco La Grua, tutte le giunte della Seconda Repubblica. E allora invece, alla fine, sono stato soltanto assessore per due tornate di circa un anno, 9 mesi, 2 anni credo, nei primi 10 anni della mia esperienza di consigliere comunale nella Prima Repubblica. Non l'ho mai, anche quelle diciamo due incarichi assessoriali non li ho cercati. Perché? Perché io allora esercitavo la professione di ingegnere, e l'ingegnere che stesse o consigliere comunale era come se io ma ora sei in pensione. No, ora ti voglio dire questo. E per quanto riguarda la possibilità di essere consigliere comunale, tu hai visto come poco fa mi sono accalorato. Sì. Perché vivi i problemi, comunque non è una cosa. Come sono fatto così, ero fatto così anche per come la Prima Nicola, Repubblica, però ora ho gli anni che ho e non mi sento e non mi sento di espormi dal punto di vista del rischio per la mia stessa incolumità fisica, nel senso che mi può scattare, come si dice, il cuore potrebbe scattare, perché sono fatto così, voglio dire. Ma io fondamentalmente non ho mai cercato né di fare il sindaco né di occupare incarichi nella vita amministrativa, perché non ho mai voluto essere ostaggio di alcuno. Se il sindaco avesse il potere, per esempio quello di scegliere i suoi collaboratori in giunta, sulla carta è così, ma poi sono i partiti che condizionano. Se il sindaco avesse la possibilità di prendere a calci nel sedere e scacciarli dal palazzo di città quei funzionari che sono responsabili dei servizi quali adesso sono, che non sono all'altezza della situazione, allora io il sindaco, cioè la tentazione di fare il sindaco potrei ancora averla, ma non è così. In questi giorni abbiamo parlato poco fa, cioè il problema è la carica del, altro che il sindaco sceglie, il sindaco eletto e sceglie i suoi collaboratori. Qua prima di si sceglie il sindaco, intanto in quanto si sono spartiti. Chiaro, questo non posso accettare. Chiaro, Saro, io volevo rivolgere un'ultima domanda a Nicola Noto. Come vedi il 2012? La stessa domanda la vorrei fare a Magda Culotta per quanto riguarda Bollina. Prego, Nicola. Il 2012 è importante. Quest'anno che è iniziato, come si devolverà? Speriamo che non si avveri la predizione dei Maya. Ma noi tra l'altro non ci crediamo che deve finire il mondo. Credo che per Cefalù e per il territorio circostante è un anno molto importante, in quanto ci sono le elezioni. Quindi più che immaginare, io faccio degli auguri a Cefalù e al territorio che venga eletto un sindaco che sia degno di tale nome e che abbia un consenso diciamo vasto nell'ambito dell'elettorato, perché solo in questo modo credo che Cefalù e il territorio madonita, con il risvolto che c'ha diciamo la politica cefaludese sul territorio madonita, possa dare una svolta chiara. È importante, perché i problemi sono tanti, le soluzioni sono difficili, e solo con competenza, capacità e impegno si possono portare a soluzione tutti questi problemi. Magda Culotta, la stessa domanda, ovviamente inserendo qualche obiettivo oltre a quello che già hai presentato. Sì. Il 2012, mi ripeto, mi prendo a prestito una frase già utilizzata, anche per Polina sarà un anno importante, perché finalmente si potranno mettere a frutto tanti di quei lavori, di quella progettualità a cui si è lavorato nell'anno e mezzo che abbiamo vissuto come amministrazione, per cui finalmente si riusciranno a dare ai nostri cittadini quelle risposte concrete che possibilmente si aspettavano nell'immediato, ma che è difficile poter fare, perché ribaltare una situazione di stasi come quella che si è trovata a Pollina non è facile. Bisogna lavorare veramente costantemente ogni giorno, senza perdere mai la speranza e senza perdere mai l'obiettivo principe della politica, che è quello di stare al servizio del territorio. Non ci sono altri fini, è solo quello, il valore più alto. E quindi questo è l'appello che si fa anche per tutte le città come Cefalù, per tutte le comunità amadonite che andranno ad elezioni. È un momento difficile, veramente difficile, in cui la gente ha l'esigenza di ripristinare laddove si è persa, o comunque di mantenere laddove non si è persa, la fiducia nelle istituzioni. I comuni sono la cellula principale del rapporto tra il cittadino e le istituzioni, e di conseguenza bisogna che ad amministrare ci siano delle persone presenti, disponibili, capaci e competenti. È vero che il mio caso sicuramente lo dimostra, la competenza poi si acquisisce sul campo, però ci vuole sicuramente l'impegno è la presenza, perché sì. Se io non fossi una persona costante nel lavoro che svolgo per la mia comunità, sicuramente non avrei potuto raggiungere i risultati raggiunti, e non potrei sperare di raggiungere tutti gli altri che per me, per la mia amministrazione, per il mio consiglio comunale, con cui lavoriamo in sintonia, in sinergia, sono obiettivi fondamentali, perché metteranno sicuramente a rialzo la nostra comunità. Quindi ciò auguriamo il bene per tutto il comprensorio, in questo caso certo. Siamo a Cefalù, per questa città. Certo. E chiudo questa trasmissione con una notizia riguardante l'ospedale, l'ha fornita l'ospedale stesso, ma io la riprendo da Cefalù News, dell'amico Mario Macaluso. Perché chiude emodinamica? Il laboratorio di emodinamica del San Raffaele Giglio di Cefalù è stato momentaneamente chiuso per consentire interventi tecnici e organizzativi che eleveranno ancora gli standard di sicurezza per il paziente. Lo rileva il direttore sanitario dell'ospedale di Cefalù, Salvatore Putiri, che ne ha disposto la chiusura d'intesa con il responsabile del reparto, Tommaso Cipolla. Contiamo, prosegue Putiri, di ampliare nel più breve tempo possibile il numero dei presidi sanitari necessari per affrontare ogni tipo di emergenza. Ci scusiamo, dicono i dirigenti, con i cittadini, ci impegniamo a realizzare con rapidità quanto stabilito, facendo del nostro meglio per ridurre i disagi. E poi parla di altre cose, ma quello che è importante è che questo laboratorio di emodinamica possa riaprire quanto prima possibile, perché riguarda la salute dei cittadini, e con la salute dei cittadini non si può certamente tergiversare. E io avrei concluso un po' questa trasmissione. Vorrei ringraziare Magda Culotta, sindaco di Pollina, l'ingegnere Rosario Di Paola, opinionista, Nicola Noto, consigliere comunale, esponente dell'MPA. E vorrei chiudere questa trasmissione ricordando che subito dopo andrà in onda la canzone dedicata a te di Salvo Gugliuzza e Giuseppe Passamonte, eseguita da Totuccio Curreri, e va in onda, mi dice Angelo Arduino, subito. Grazie ancora. Sì, questo l'abbiamo già detto. Grazie ancora. Ricordo ai nostri radioascoltatori che questa trasmissione verrà replicata lunedì alle ore 13:15, e oggi, domenica, tutti al campo di Gliascillo per assistere alla partita di B2 tra il Cefalù ed il Messina Volley alle 18. E con questa notizia, da Angelo Arduino, Fabio Fiducia e Mario Lombardo, una felice giornata ai nostri radioascoltatori.